la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qua in diretta dagli studi di Milano della radio. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia, sono le 16.33 primi 24 secondi e andiamo subito al tema della giornata, dopo il rituale ringraziamento perché siete in ascolto, perché ci scaricate in podcast e dopo avervi ricordato di mandare le vostre osservazioni o proposte di temi alla versione di Oscar @radio24.it. Ecco, di cosa parliamo oggi? Come è avvenuto più volte negli ultimi giorni, di una sentenza che tocca un punto che potrebbe cambiare significativamente la vita di centinaia di migliaia di italiani. Davvero di centinaia di migliaia, perché riguarda il, tra virgolette, giusto prezzo in caso di compravendite di unità immobiliare, quindi di case, che appartengono a quello che si chiama il social housing, cioè complessi di edilizia popolare realizzati attraverso la contribuzione collettiva e con leggi ad hoc nei diversi decenni della vita repubblicana. Quindi il patrimonio immobiliare che fa parte degli ex IACP, che poi di città in città magari si chiamano diversamente, a Milano si chiama l'Aler e così via, ma insomma il complesso dell'edilizia popolare realizzata per decenni, dagli anni 60 in avanti, dai tempi di Fanfani in avanti, nel nostro paese. E come spiegheranno gli ospiti che abbiamo, il caso insomma è questo. Poiché lo Stato, questo lo dicono i dati che trovate sul portale del Tesoro, in realtà con una inefficienza diversamente distribuita nel territorio nazionale, nelle grandi città come nei piccoli comuni, ma soprattutto nelle grandi città, storicamente è diventato un pessimo padrone di casa, cioè il patrimonio immobiliare in affitto costa invece che rendere, tanta è l'incapacità dello Stato di saperlo gestire e mettere a reddito. Cosa capita? Capita che nel tempo, negli ultimi due decenni soprattutto, molti degli assegnatari abbiano aderito alle possibilità di acquisto agevolato della unità immobiliare di edilizia popolare di cui erano affittuari. La questione di cui parliamo oggi è: quegli ex assegnatari divenuti proprietari, quando rivendono l'immobile di edilizia popolare, sono liberi di praticare il prezzo di mercato, come capita innumerevoli volte, come sembra essere la regola e non l'eccezione nel nostro paese? Oppure invece il fatto che quei complessi di immobiliari siano stati realizzati allo scopo e con denaro volto ad hoc a realizzare quei complessi di edilizia popolare rendono nel nostro ordinamento giusto il fatto che ci sia un prezzo commisurato, certo all'avvaloramento nel tempo dell'immobile, ma comunque diverso dal libero prezzo di mercato? Ecco, su questa forbice di valutazione è appesa la possibilità di centinaia di migliaia di italiani di poter comprare da chi ne è divenuto proprietario nel tempo un appartamento di edilizia popolare, oppure di non poterlo fare se il prezzo è quello di mercato, cioè molto più alto. E parliamo di una sentenza della Corte di Cassazione, che proprio accogliendo l'istanza di chi stava comprando un appartamento di edilizia popolare a Roma, si è fatto venire il dubbio di fronte alla cifra che gli veniva chiesta, che era una cifra di mercato elevata, e a quel punto ha detto: no, io non perfeziono l'acquisto. Io vado in tribunale e chiedo a un giudice, ma è giusto che io paghi il prezzo di mercato per un appartamento così? Quindi se siete in condizioni di questo tipo, sia che voi siate proprietari di edilizia popolare che volete vendere, sia che cerchiate di comprare e non riuscite a trovare il prezzo perché vi sembra troppo stellare, oggi è giusto, il giorno giusto per telefonare, perché questa sentenza vi riguarda e vi può cambiare la vita. Quindi il numero di telefono è 800 24 00 24, 349 238 6666, per mandarci gli sms. Adesso cerchiamo di farci spiegare per bene i contorni di questa vicenda che poi è sfociata in questa sentenza della Cassazione. Quindi abbiamo con noi l'avvocato Antonio Corbace, che è l'avvocato di un'associazione Area 167, perché identifica appunto un'area d'edilizia popolare a Roma. Grazie avvocato di essere con noi. Buonasera. E Giuseppe Di Piero, che a propria volta è presidente dell'associazione Area 167. Grazie anche a Giuseppe. Buonasera. Allora avvocato, ci spiega bene questa vicenda, come è arrivata questa sentenza e l'importanza che può avere, oltre naturalmente per il ricorrente e per tutti gli altri. Sì, io vorrei precisare, dottor Giannino, Giannino e basta, grazie, per ampliare un po' il quadro e precisarlo che in realtà la sentenza riguarda non solo gli alloggi che lei ha descritto, cioè quelli che lo Stato aveva poi ha venduto, esatto, ma anche gli alloggi costruiti in zona 167, che è il riferimento alla norma 167, sì, del 69, in zona 167 da cooperative, da private. Esattamente. Ha ragione. Che però poi hanno goduto, come lei comunque già ha detto, di finanziamenti pubblici, di agevolazioni varie, perché per esempio hanno costruito su suoli che vengono espropriati ai proprietari e assegnati a prezzo politico, certo, alle cooperative o alle imprese. Quindi per dirne una, noi prima di questa sentenza della Cassazione avevamo già ottenuto una sentenza dal Tribunale di Roma nel 2014, dove un alloggio che era stato pagato, all'epoca c'era la lira, 180-190 milioni, quindi diciamo più o meno 100 mila euro attuali, veniva rivenduto a 3,60 a Roma. Quindi la forbice, in realtà, perché poi c'è un meccanismo sempre previsto dalla legge di adeguamento del prezzo nel tempo e quant'altro, a quel momento, al momento in cui era stato fatto il preliminare, quell'alloggio ne valeva 140. Esatto. Il giudice del Tribunale di Roma, in questa sentenza, ha stabilito che andava fatta la vendita a 140. Quindi diciamo, stiamo parlando di questi numeri. Poi Roma è particolare perché le differenze, cioè i valori di mercato, tra virgolette, sono abnormi rispetto ai valori di convenzione. La convenzione, ecco, che poi è l'oggetto di questa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite ultima, che lei ha citato, la convenzione è un contratto che viene stipulato tra il comune, Roma o ovunque abbiano costruito, e il costruttore, sì, che può essere cooperativa o impresa. L'oggetto di quella sentenza riguarda proprio la validità di questa convenzione, cioè ci si chiedeva, queste convenzioni si limitano al rapporto tra il comune che ha concesso le aree, ha fatto costruire queste cooperative, e il primo assegnatario, quindi la cooperativa, oppure si estendono anche dopo alle vendite successive? Ora, quindi è, a questo punto la faccenda diventa una sentenza su gli obblighi del comune rispetto alle successive compravendite, è così? Anche perché poi i comuni, nella norma è previsto che dovevano vigilare rispetto al rispetto di questi obblighi, mi scusi la ripetizione. Quindi il problema è sorto laddove, perché poi non tutti i comuni, diciamo, si sono comportati male. Noi riteniamo che il Comune di Roma in questo senso abbia mancato parecchio, e le dico, solo a Roma parliamo di centinaia di migliaia di alloggi, perché in Italia parliamo di milioni. Lei consideri che l'edilizia convenzionata in Italia è circa il 70% dell'edificato da metà anni 70 fino ad oggi. Quindi stiamo parlando di una cosa che ha un impatto diretto sulla vita di milioni di italiani. Sì, sì. Con l'obbligo di dire che non dovunque i comuni si sono rivelati nel tempo inadempienti a questa vigilanza che va fatta rispetto ai prezzi di convenzione. Nel tempo, ripeto, non restano i valori storici, vengono attualizzati, ma non con il criterio del prezzo di mercato. Perché Roma non lo ha fatto? Perché le dicevo, le anticipavo prima, perché i valori sono elevatissimi, cioè la forbice cioè ora per fare... No, no, ma questo è chiaro che io, a chiunque conosca, insomma, la varietà e l'altezza dei prezzi immobiliari di Roma, ma il problema è che il comune a questo dovrebbe essere indifferente, cioè dovrebbe preservare il fatto che le agevolazioni e i finanziamenti grazie a cui quei complessi sono stati edificati comunque vincolano la destinazione a un housing sociale che non consente una patrimonializzazione se non nei limiti ragionevoli alla vendita. E quindi, ma il comune di Roma non lo fa perché non ha le risorse umane specializzate per stare dietro all'enorme patrimonio di queste aree, oppure semplicemente non lo fa per indifferenza? Allora guardi, il Comune di Roma ufficialmente non lo ha fatto perché era convinto che non fosse tenuto a farlo, che non fosse tenuto a farlo, perché siccome nel 1992 era intervenuta una norma che aveva consentito di poter vendere questi alloggi prima di quanto era previsto in precedenza, sì, sì, sì, cioè sì, prima c'era un vincolo decennale, poi il vincolo è diventato quinquennale. Da quel momento in poi si sono convinti o autoconvinti che quella norma potesse rappresentare una liberalizzazione globale, ma la norma si era limitata a dire soltanto, appunto, la norma era sul limite temporale, non era, ecco, sul ora prezzo di realizzo. Esatto, quindi che accade? Accade che con questa, tra virgolette, scusa o convinzione sbagliata, tra l'altro mi risulta solo a Roma, è successo, diciamo, in maniera così eclatante, generalizzata, hanno cominciato sia il comune ma anche i notai, perché io poi mi permetto di sottolineare un aspetto, cioè anche i notai che sono i tutori, i primi tutori delle norme quando i privati vanno a stipulare un atto pubblico, avrebbero dovuto, molti lo hanno fatto, cioè devo dire, però purtroppo, anzi, non molti, qualcuno. Ecco, no, a me risulta qualcuno, non molti, perché infatti io nel proseguo della della trasmissione avevo sollevato questo problema di cui ci siamo resi conto, perché i notai difendono il fatto che lo notariato italiano e latino non deve essere toccato, eccetera, già, perché è un presidio di legalità, però i casi in cui hanno sollevato, risulta almeno che abbiano sollevato questo problema, di cui poi voi vi siete occupati fino alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, sono pochissimi, almeno quelli noti, quindi il più dei notai non lo hanno sollevato questo problema. Ma loro a Roma, perché poi noi conosciamo molto bene la situazione di Roma, a Roma si sono accontentati di una lettera che volta per volta il comune, una sorta di liberatoria, comune di Roma rilasciava dicendo no, quella convenzione non prevede il vincolo sul prezzo. Noi abbiamo qualche copia di queste lettere, tra l'altro è stata interessata anche la Procura di Roma su queste liberatorie, quindi c'è un'indagine in corso. Perché io capisco, voglio dire, l'interesse di chi vende a realizzare al massimo, però ripeto, qui stiamo parlando di un patrimonio ingentissimo edificato con i soldi pubblici, agevolazioni pubbliche, con i soldi di noi tutti, è rivolto a un fine preciso. Se diventa un'area destinata a chi se la può permettere, si viene meno al motivo per il quale nei decenni abbiamo realizzato questa roba. Allora continuiamo a riflettere, dando la parola anche al presidente dell'associazione Area 167, che ci spiega a che cosa apre come prospettiva sociale questa sentenza a Roma innanzitutto, ma non solo. Tra un minuto, perché adesso abbiamo l'informazione stradale. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta la versione di Oscar. Allora, eccoci tornati in diretta. Solidarietà ai romani per questo ennesimo giorno di calvario dei trasporti pubblici locali. Io ho scritto già il fondo per il Messaggero di domani con 4 accuse precise di cose che a Roma non cambiano mai. Vi invito a leggerlo, perché una è rivolta all'assessore Esposito, 2 sono rivolte al prefetto e 1 al governo. La cosa incredibile è che i romani debbano sopportare tutte queste cose così ripetute. Però, ripeto, non cambiamo argomento rispetto a oggi. Io devo dire al nostro avvocato Corvace, Giuseppe Di Piero, che c'è una raffica di sms che così sintetizzo prima di passare alcune telefonate, così poi vi faccio rispondere. Allora, ci abbiamo ascoltatori come Stefano che dicono: io però ho comprato anni fa a prezzo di mercato e adesso se voglio rivendere per questa sentenza, quindi sono vincolato a perderci. Ecco, c'è chi, sono diversi messaggi di questo tipo. Altri invece dicono, e questi sono proprietari, dice: io ho pagato 5.000 euro al mio comune per togliere la convenzione dai piedi e poter vendere. Quindi come vedete, è un mondo in cui di comune in comune le regole, per così dire, si interpretano e si cambiano. Di qui l'importanza di questa sentenza, che oltretutto, essendo di sezioni riunite, ha un valore ancora più forte e penetrante, per così dire. Allora, sentiamo alcuni ascoltatori anche brevemente. Cominciamo con Luigi da Milano. Luigi, prego. Luigi, buonasera. Eccoci, buonasera. Buonasera, allora io sono un esempio di quello che state giusto dicendo, a parte il fatto che volevo anticipare una cosa che secondo me non sempre conviene dichiarare, cioè dichiarare il pieno valore dell'immobile, normalmente quando si compra 100 si dichiara 50 così si paga di meno, e prescinde dal discorso dell'edilizia convenzionata. Questo è noto, i notai sostengono che loro esistono anche per impedirlo, io ho prove abbastanza documentali del contrario, però insomma diciamo che lei ci parla di una prassi molto diffusa. Allora. Crediamoci. Invece per quanto riguarda i comuni, come dice giustamente, non sono tutti uguali. Il mio, dopo averci venduto il terreno, ci ha obbligato a mantenere comunque i prezzi di mercato per 10 anni. Dopodiché ci ha venduto anche il diritto di poterlo vendere al prezzo di mercato quando volevamo. Ah, quindi voi avete pagato il diritto a vendere come volevate. Bene. Ho preso 10.000 euro. Che comune è? Possiamo dire che comune è? Bollate? Bollate, quindi stiamo parlando vicino a Milano. Giorgio da Piacenza, breve Giorgio, prego. Sì, niente, sono stato anticipato dalla sua affermazione. Anche lei? SMS, perché io ho acquistato a prezzi di mercato e vorrei vendere anche a prezzi di mercato. E adesso se viene inibito dalla sentenza dice ci ho rimesso. Paolo, dalla provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Un'informazione, premesso che io ho comprato in provincia di Roma in zona 177, però mi è stato detto che in teoria non è edilizia popolare ma è edilizia convenzionata. Eh sì, sì, ma è accumulata, la sentenza è proprio sul 167, quindi dica. Io ho comprato direttamente dal costruttore, che era un costruttore privato, a prezzo di mercato. Come, cioè, vuol dire, cosa è, sono in una situazione in cui non saprei eventualmente se rivalermi, con chi rivalermi. E quindi dice, io ho pagato a prezzo di mercato, com'è che se voglio rivendere? Cioè, lo sapevo che molti avrebbero telefonato su questo. Avvocato, riesce in un minuto e mezzo, e poi diamo la parola a Giuseppe Di Piero, a dare almeno qualche dritta a questa congere di domande? Sì, allora guardi, velocemente. Intanto dal 2011, come hanno detto gli ascoltatori, è possibile riscattare il prezzo, riscattare i vincoli sul prezzo. Perché c'è la legge 106 del 2011 che lo consente, però questo prevede che il comune debba predisporre una nuova convenzione che integri e sostituisca addirittura la precedente. Ora il comune di Roma, guarda caso, non l'ha ancora fatto. Non l'ho ancora fatto. Perché? Perché altrimenti avrebbe ammesso che per 20 anni hanno fatto diversamente. Esattamente. Ecco. Poi c'è l'ulteriore problema che ha... Quindi consiglio agli ascoltatori, se siete in quella condizione, verificate che il vostro comune, esatto, dopo la 106 abbia rifatto la convenzione. Sì. L'altra questione, che è però è un'altra questione, è che addirittura spesso all'origine c'è il problema che l'impresa X o la cooperativa in convenzione ceda a prezzo superiore a quel cosiddetto prezzo massimo di cessione che è previsto dalla legge. Ma quella è una violazione di legge. Quella è una violazione patente ab origine, per così dire. E quindi i comuni peccano. Esatto. Di Roma, e le anticipo, posso dirlo, certo, anche su questo c'è un'indagine in procura. Un'indagine in procura, va bene. Allora, detto questo, allora grazie all'avvocato Corbacci. Giuseppe Di Piero, per voi in concreto e per chi anela, non avendo chissà quanti soldi, ad avere un'edilizia agevolata al giusto prezzo, chiamiamolo così, cosa cambia questa sentenza? Allora, intanto ringrazio dello spazio che ci concedete. Dopo volevo brevemente dire sulla base su cui si muove la nostra associazione. Secondo noi praticamente la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica non può terminare al momento della prima assegnazione. Detto questo, praticamente quali sono le prospettive? Intanto mi riallaccio a quello che diceva l'ascoltatore, che ci sono praticamente, che conviene dichiarare il nero. In realtà non è così, perché tra l'altro questo dopo l'intervento della legge Bersani è impossibile, perché praticamente c'è un problema praticamente di tracciabilità un problema di antiriciclaggio, per cui praticamente no, si incorre in conseguenze pesanti, diciamo così. Sì, ecco. Pesanti. Quindi praticamente la riduzione, la dichiarazione di un prezzo inferiore arrivava ed era praticamente in auge prima praticamente della legge Bersani, adesso non succede più. Che cosa succede a questo punto qua? Succede praticamente... Anche se devo dirla che le segnalazioni che noi abbiamo non confermano questa cosa. Ma non cosa conviene. Ah, Riccardo, ecco, no, questo è diverso. Si rischia molto perché più. Non conviene. Questo... Esatto, esatto. Non conviene perché comunque le tasse si pagano su questo valore, per cui insomma, su questo un notario che consiglia una cosa del genere... Ecco, bravo, sono d'accordo con lei, Per cui... Da un altro punto di vista c'è il problema effettivamente delle persone che hanno comprato a prezzo di mercato, indotti in errore da certo. Comune e notai, perché praticamente molta gente ha acquistato non sapendo quello che faceva, perché praticamente i notai hanno garantito che si poteva fare, il Comune ha dato le cosiddette liberatorie. Noi praticamente già nel 2011, ma anche da prima, perché praticamente la giurisprudenza viene già dal 94, c'è la prima giurisprudenza che dice che questo non si può fare, certo. Avevamo segnalato al Comune, e il Comune per esempio di Roma ha fatto orecchie da mercante, ha fatto orecchie da mercante. E questo praticamente e ci sono praticamente anche situazioni illecite proprio in cui praticamente come diceva l'avvocato Colvace che praticamente sono già ad origine. No. Allora io mi devo solo augurare che in questa faccenda insieme a tante altre il Comune di Roma si dia rapidissimamente, a maggior ragione dopo una sentenza della Sessione Unita della Cassazione, una regolata, perché il problema dell'housing sociale è un problema vivissimo a Roma, con i prezzi che ci sono oltretutto e la concentrazione antropica che c'è e l'andamento dei redditi reali. Detto questo, viva questa sentenza e grazie a chi se n'è occupato per anni, se ristabiliamo questo principio a cui i comuni avevano derogato chi in un modo chi nell'altro, a questo punto mi tocca ricordarvi che domani mattina dalle 10 alle 12 con Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminario, Renato Cifarelli siamo in diretta con voi dalle 10 alle 12 sui conti della Belva e ci occupiamo della ripresa, ci occupiamo delle trivellazioni, dei referendum delle regioni sull'energia e così via, e da lunedì mattina sono anche alle 8 e un quarto alle 9 con Attenti a Noi Due con Alessandro Mila, non perdetevela, naturalmente continua anche alle 16:30 da lunedì a venerdì con la versione di Oscar.